c'è tra me e te, non ci sarà mai tra me e lui. Tu sei per me qualcosa di più, qualcosa di più, difficile a dire. Lui è un caro mio amico, forse per questo gli voglio bene. Lo so, mi dici sempre che non è bene, però quello che c'è tra me e te non ci sarà mai tra me e lui. Quello che c'è tra me e te, ci sarà mai tra me e lui. Tu sei per me qualcosa di più, qualcosa di più, difficile a dire. Lui è un caro mio amico, forse per questo gli voglio bene. Lo so, mi dici sempre che non è bene, però quello che c'è tra me e te non ci sarà mai tra me e lui. Quello che c'è tra me e te, quello che c'è tra me e te, quello che c'è.